cenere nelle mie vene, il mio corpo all'interno ora trattiene. Siamo preda tutti i giorni di infinite guerre aperte, guerriglie sempre pronte su questo nostro fronte. Conflitti globali, amori virtuali, tutti in lotta per passaggi multimediali. Rimaniamo intrappolati in questa grande rete urbana, la nostra razza è diventata alquanto insana. Strani virus si modificano in base al sistema, io non vedo futuro e non vedo uno schema. Combattiamo contro l'uomo invisibile, poi preghiamo sotto i piedi di un uomo facsimile. Religiosi che salvano popoli, religiosi che distruggono metropoli, con i loro kamikaze travestiti da discepoli. Ci nascondiamo dietro false illusioni e memorie del passato, con finti teoremi che tutto può cambiare, che tutto possa forse un giorno ricominciare. Mani pulite, lavate con l'indifferenza. Intanto la mia terra si sporca la coscienza. Ora rimane solo polvere. Passaggi del tempo, poche ombre ci sorreggono, messi al patibolo davanti al grande pubblico, le nostre vite come fili sottili, cervelli artificiali che ci mandano segnali, captiamo onde da mondi diversi, cerchiamo vite su pianeti che facciamo nostri, mentre qua la nostra terra si sporca e noi cerchiamo invano di cavalcare l'ultima onda. Il mio sesto senso avanza, chiuso dentro una stanza, la luce dentro il tunnellone più abbastanza. Inventiamo scorciatoie per il nostro futuro, per cercare qualche cosa che rimanga in chiaro. Reti invisibili sulle nostre teste, clonazioni su richieste, menti perverse che ci comandano e poi ci impongono. Tutti schiacciati dentro un monitor, tipo un effetto panoramico. Sole non